Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori a questa nostra rubrica dedicata ai libri di economia. E proprio di economia non può che parlare un libro che ha come titolo La crisi ha ucciso il libero mercato, punto di domanda, a cura di Alberto Mingardi, che è qui con noi. Buongiorno Mingardi. Buongiorno. Alberto Mingardi è direttore dell'Istituto Bruno Leoni, che è anche l'editore di questo libro. L'Istituto Bruno Leoni, forse Mingardi vale la pena ricordare che cos'è per chi non lo sa, per quei pochi che non lo sanno. Quei molti che non lo sanno, l'Istituto Bruno Leoni è il tentativo di fare anche in Italia un think tank, un pensatoio indipendente dai partiti, ma incardinato su una mission molto chiara, che è quella di promuovere le idee di concorrenza e di libero mercato. Da febbraio di quest'anno l'Istituto ha anche una propria etichetta editoriale. In questo periodo così critico ci è piaciuta l'idea di fare partire in modo forse un po' sconsiderato e folle una nuova impresa. Questa etichetta editoriale si chiama IBL Libri ed è presente in libreria con 6 titoli che sono anche acquistabili, scusate lo spot, sul sito www.ibl-libri.it. Ah, quindi per acquistare i libri, non per leggerli gratis. Insomma, noi crediamo nel libero mercato, non a caso. Ecco, allora, la crisi ha ucciso il libero mercato, punto di domanda. È chiaro che è un po' a questo punto, diciamo, una domanda retorica, perché se l'avesse ucciso davvero, anche l'Istituto Bruno Leoni dovrebbe chiudere i battenti. L'Istituto Bruno Leoni fa resistenza, per così dire. La crisi ha ucciso il libero mercato, come titolo, è una provocazione. Abbiamo voluto mettere il mercato nelle parti della vittima di questa crisi, tenendo presente il genere di interventi, di sforzi di carattere regolatorio che sono provocati per l'appunto da quanto è avvenuto negli scorsi mesi. Si potrebbe dire che la crisi non ha ucciso il libero mercato per assenza di cadavere, perché in quegli ambiti che vengono ora ancora più regolati in realtà erano tutto fuorché mercati sregolati e liberissimi. Non di meno, nella vulgata, la crisi è il frutto di una concorrenza spietata e feroce. Questo libro raccoglie saggi diversi che cercano invece di individuare le componenti pubbliche tra le cause della crisi. Una lettura minoritaria, ma che ciononostante sta acquisendo pian piano, man mano che lo Stato dimostra di non essere in grado di risolvere la crisi, un numero maggiore di sostenitori. Penso per esempio alla recente relazione del Presidente della Camera Gianfranco Fini, prima della relazione annuale del Presidente Antitrust Catricarà, la relazione nella quale Fini ha di fatto sposato una lettura della crisi finanziaria che vede al centro come essenziale concausa l'intervento degli Stati. Ecco, però se è vero che manca il cadavere di mercato, non mancherebbe il movente, perché nel libero mercato, negli ultimi anni, al libero mercato vengono imputati molte nefandezze, le ingiustizie sociali, l'arretratezza di molti paesi, l'incapacità di affrontare i temi dell'equità dal profilo proprio delle società anche evolute, dove si è allargata la differenza tra ricchi e poveri, il fatto che i ricchi sono diventati forse un po' troppo ricchi, con bonus e stock option addirittura scandalose, quindi qualche movente per l'assassinio ci potrebbe pure essere. Dunque, diciamo subito alcune cose. Uno, ci sono tanti problemi con quanto è accaduto nel mondo negli ultimi 20 anni. Una cosa è sicura, non abbiamo mai visto una simile esplosione di ricchezza nella storia dell'umanità. La globalizzazione dei commerci, l'espansione della scala del mercato ha inserito nell'economia globale tutta una serie di paesi, di popoli, di realtà che ne erano fuori. Certo, non si esce dalla povertà tutto in una volta, non si passa da vivere nelle palafitte a viaggiare sullo space shuttle in un giorno, ma è un processo che è cominciato solamente grazie alle risorse dell'economia privata e rispetto al quale il ruolo intelligente degli attori pubblici è stato quello di farsi un pochettino da parte. In seconda battuta, stock option, bonus assurdi, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono indubbiamente problemi, ma sono problemi che non vanno visti in una logica Stato contro mercato, ma vanno visti invece all'interno di una grande questione, che è quella della corporate governance, rispetto alla quale chi sta dalla parte del mercato è naturaliter dalla parte dei proprietari di un'impresa, degli azionisti. ci sono tante situazioni nel mondo, alcune molto visibili, nelle quali si è privilegiato in maniera folle neanche il diritto ma le prerogative del management a scapito dei proprietari delle aziende, a scapito degli azionisti. Questi sono, per così dire, problemi politici all'interno dell'impresa, problemi di agenzia difficilmente risolvibili, ma non sono sicuramente imputabili a un eccesso di mercato, anzi spesso e volentieri sono figli di un eccesso di regolazione del mercato, del controllo delle aziende. Ecco, questo libro è fatto di numerosi interventi raccolti soprattutto tra esponenti del pensiero liberale, che sono un po' legati dal fatto di essere tutti, appunto, riconoscono che questa crisi è dovuta più a un eccesso e a una difficoltà di regolare che non a un'incapacità del mercato stesso come modello. Però anche il regolare dipende appunto dallo Stato. Comunque un po' di Stato ci vuole, quindi. Questa crisi è dovuta a una serie importantissima di concause. C'è una crisi della corporate governance, c'è una crisi dell'intermediazione finanziaria che è legata in grande parte a decisioni che sono pubbliche per antonomasia, perché sono decisioni delle banche centrali. C'è una crisi dei segnali di mercato, che è frutto per l'appunto di questa folle e gigantesca espansione di moneta degli anni scorsi. Ora, il dibattito non è mercato-stato e non è neanche regole-non regole. Tutti credono nelle regole, il mercato ha sempre e comunque un'impalcatura giuridica. La questione è certezza del diritto, arbitrarietà. Più intervento pubblico, un numero maggiore di autorità di regolazione, la creazione arbitraria di nuovi enti che supervisionano l'andamento dei mercati di punto in bianco, eccetera, eccetera, eccetera, tutto questo crea incertezza. Creando incertezza rende gli operatori economici in balia di autorità meno prevedibili. Questa assenza di prevedibilità a sua volta crea l'occasione per i furbi in qualche maniera di incunearsi nelle zone d'ombra. Noi dobbiamo cercare di avere un quadro regolatorio, come sempre, il più certo possibile, un quadro regolatorio certo e anche un quadro regolatorio semplice, essenziale, conoscibile da parte degli individui e delle imprese. C'è un'interessante, diciamo così, immagine proprio nelle ultime pagine di questo libro, in cui sono raccolti anche due stralci di Mises e Hayek. E Hayek scrive: l'uomo dovrà perciò utilizzare la conoscenza che potrà conseguire non tanto per modellare gli eventi come l'artigiano modella i suoi soggetti, ma piuttosto per favorire lo sviluppo creandogli le condizioni ambientali adatte come fa il giardiniere con le sue piante. E questa è un po' la filosofia. Assolutamente, la lezione di Hayek quando ricevette il premio Nobel è fondamentale e molto evocativa, perché ci riporta al problema che è stato cruciale per tutta la vita di studioso di Hayek, ovvero la distribuzione della conoscenza nella società. Uno dei grandi argomenti usati da Hayek contro la pianificazione economica era che in qualche maniera il pianificatore non poteva sapere di più dei singoli imprenditori, operatori economici, lavoratori, consumatori nella società, perché ognuno conosce meglio di chiunque sia lontano da lui quali sono le condizioni nelle quali è opportuno per lui muoversi come produttore e come consumatore. La conoscenza della società è dispersa. Questo è tanto più vero quando andiamo a discutere di mercati complicatissimi. Ora, pensare che in questo contesto possano essere introdotte anche dalla porta di servizio nuove forme di pianificazione, tra virgolette, cioè possa essere messa in capo ai regolatori la possibilità, il bisogno di scrutinare puntualmente quello che fanno tutti gli operatori economici, è utopia. Grazie ad Alberto Mingardi, che ci ha accompagnato incuriosendoci nelle pagine di questo libro, La crisi ha ucciso il libero mercato, punto di domanda, curato appunto da Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Il libro, edito dallo stesso istituto, costa 22 euro, quasi un euro per 10 pagine, dato che le pagine sono 230, ma è una lettura interessante per capire la crisi com'è e quali possono essere le vie d'uscita. Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento dedicato ai libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte con Alberto Mingardi della crisi che avrebbe ucciso il libero mercato, e parliamo ora di economia concreta, di economia italiana, delle strade per uscire dalla crisi economica. Parliamo del libro di Ignazio Visco, Investire in conoscenza per la crescita economica. Buongiorno, dottor Visco. Buongiorno. Ignazio Visco è vice direttore generale della Banca d'Italia, di cui è stato funzionario generale e capo servizio studi a Lugano. lungo è stato anche economista all'OCSE, quindi un approccio all'economia in linea diretta, e il sottotitolo del libro è Per la crescita economica. Io partirei, dottor Visco, da guardare un po' la realtà com'è attualmente. Siamo nel mezzo di una crisi, ovviamente parlare di crescita è una manna. Perché in questa fase di profonda crisi, è importante allora investire in conoscenza? Prima di tutto, l'investimento in conoscenza ovviamente ha rendimenti differiti nel tempo. Quello che noi abbiamo adesso di fronte è il tentativo di uscire il più rapidamente possibile da una situazione di recessione grave di cui noi non siamo causa, che viene dal resto del mondo, una crisi finanziaria, una crisi che investe il nostro paese, perché il nostro paese è un paese esportatore, un paese aperto con l'estero, e come tale quindi ha risentito particolarmente la grave caduta della domanda estera. Ma questa recessione si inserisce su un trend, una tendenza di fondo dell'economia italiana che da almeno da oltre un decennio stenta a crescere, stenta a far registrare aumenti del reddito delle famiglie simili a quelli che si sono verificati negli altri paesi. La mia impressione è che questo in buona parte rifletta il ritardo col quale noi abbiamo fatto i conti con le grandi innovazioni tecnologiche che sono occorse nella seconda metà del l'ultimo decennio del Novecento. Ecco, quindi questa analisi va al di là, diciamo, della crisi attuale, non pone le sue radici nella crisi attuale, ma in un momento di più lungo periodo. Diciamo che l'Italia ha di fronte una difficoltà strutturale nel innestare processi di crescita, e lei ha individuato questa difficoltà strutturale soprattutto nella scarsità di investimenti in istruzione, in formazione, in aggiornamento. In realtà i fattori sono molteplici e le spiegazioni monocausali sono sempre limitate. In Italia vi sono ritardi, vincoli nella fornitura dei servizi pubblici, gli stessi servizi privati sono ancora di dimensioni inferiori a quelli dei principali paesi industrializzati, abbiamo problemi gravi per quel che riguarda la criminalità che in varie zone del paese costituisce un ostacolo diretto, ma abbiamo anche accumulato negli ultimi tempi un grave ritardo in quello che gli economisti chiamano il capitale umano, cioè la disponibilità di coloro che sono inseriti nei processi di produzione a produrre utilizzando conoscenze, competenze più avanzate, più alla frontiera, più aggiornate, sia sul piano scientifico, sia sul piano delle nozioni. Un tempo il capitale umano che serviva era in agricoltura la forza fisica, adesso il capitale umano che serve per produrre è la capacità di mettere insieme concetti diversi, la capacità di riuscire a adeguarsi di fronte al cambiamento, di conoscere le innovazioni tecnologiche, di avere un bagaglio scientifico sufficiente per quel che riguarda l'attività produttiva, applicarlo alla produzione di beni e servizi. E su questo una serie di statistiche di cui io do conto nel mio libro pone l'Italia purtroppo non solo in fondo alla classifica dei paesi industrializzati, ma in realtà dell'intero insieme dei paesi dell'OCSE, e nei paesi dell'OCSE ci sono paesi come il Messico, la Turchia, che sono ancora paesi in via di sviluppo. Ecco, e a questo purtroppo bisogna aggiungere, nel libro si sottolinea che non c'è solo una carenza iniziale di formazione, di istruzione, una carenza della scuola rispetto agli altri paesi, ma c'è anche una carenza poi nel premiare il fatto che ci sia una formazione, un impegno, una passione per l'istruzione, e manca quello che viene chiamato il riconoscimento del merito. Quindi è anche una società in cui c'è poca possibilità di valorizzare i pur livelli di istruzione che una persona individualmente può raggiungere. Sì, questo si vede in vari modi. Un modo di vederlo, il modo degli economisti, è quello di andare a vedere quanto vale l'istruzione, quanto vale prendere una laurea rispetto a prendere un diploma di scuola media secondaria rispetto a prendere un diploma di scuola media. E lo si può fare in modi semplici, semplicemente confrontando le retribuzioni medie delle persone che hanno questi livelli di istruzione, oppure considerando il rendimento implicito di investire in questa, nella formazione e istruzione, che tiene conto anche dei costi. E tra i costi vi sono per esempio i mancati guadagni nel periodo in cui uno studia anziché lavorare, ma anche la probabilità di avere più lunghi periodi di non lavoro associati a un certo particolare livello di istruzione. Ora, su tutto questo noi vediamo che in Italia il rendimento istruzione, che è maggiore del rendimento per esempio di un investimento finanziario, però è più basso che negli altri paesi e in alcuni casi particolarmente più basso. Ora, cosa vuol dire questo? Beh, da un lato può voler dire che abbiamo una struttura produttiva che richiede meno persone con particolari conoscenze ottenute attraverso anche il processo educativo, dall'altro però che in realtà queste conoscenze possono essere di qualità insufficiente. Noi abbiamo entrambi i fattori che vanno contro. La qualità credo che sia molto importante, perché se non si premia l'investimento in capitale umano, in conoscenza, in formazione, anche attraverso il riconoscimento formale nella valutazione scolastica, il riconoscimento sostanziale nella valutazione del mercato del lavoro e quindi a livello retributivo, si corre il rischio di avere un paradosso. Da un lato non si investe in conoscenza perché si vede che il rendimento è basso, dall'altro non investendo sufficientemente dal lato delle imprese non conviene andare direttamente a cercare persone che hanno investito in conoscenza, perché non si ritiene che quella qualità di quelle persone sia adeguata a ciò di cui vi è bisogno e si usano canali alternativi. I canali alternativi sono inefficienti, sono le conoscenze personali, le raccomandazioni se vogliamo, anche il mantenimento di tradizioni nelle famiglie, per cui i figli di professionisti faranno i professionisti, i figli di operai faranno operai, i figli di commercianti faranno i commercianti, e non c'è quella dinamica nella società che è fondamentale per poter aggiustarsi, adeguarsi ai cambiamenti. Ecco, c'è una dinamica peraltro nella società che pone anche qualche ulteriore problema. Un capitolo di questo libro è dedicato all'invecchiamento della popolazione, all'immigrazione e alla crescita economica. Proprio questi fattori messi insieme, cioè il fatto che si allunghi la vita media ma il ricambio generazionale sia più basso che in altri paesi, viene in parte compensato dall'immigrazione, richiederebbe ancora maggiori dosi di conoscenza, di istruzione, di formazione. Beh, il punto, anche quello lo possiamo vedere da vari lati, però è un lato interessante, è quello proprio strettamente economico. Noi abbiamo una popolazione in Italia che tende sicuramente a invecchiare, le proiezioni demografiche valgono quel che valgono, però sono abbastanza valide, diciamo, per 20-30 anni. Ora, sulla base delle ultime proiezioni dell'Istat, la popolazione italiana dovrebbe crescere oltre 60 milioni nei prossimi 30-40 anni, ma con una quota di persone, di popolazione oltre i 65 anni, che sarebbe circa un terzo della popolazione, adesso circa un quinto. Inoltre, non solo aumenterebbe molto la popolazione, diciamo, di età più avanzata, ma la percentuale di persone che lavora sul totale della popolazione diminuirebbe notevolmente, e quindi con essa diminuirebbe anche la potenzialità di produrre reddito per mantenere tutti. Ovviamente per poter mantenere i livelli di reddito e anche farli crescere è importante aumentare l'occupazione, quindi far che lavorino coloro che adesso non lavorano tanto, i più giovani, le donne, le persone tra i 55 e i 65 anni, di cui molti in questo momento sono in pensione, che è prevedibile che invece nei prossimi decenni saranno sul mercato del lavoro. Ma anche questo sarebbe insufficiente e occorrerebbe quindi mantenere un flusso immigratorio rilevante. Sull'immigrazione, adesso nelle proiezioni dell'Istat si prevede di un ingresso in Italia di circa 200.000 persone all'anno in media. Con queste, la quota di stranieri che sarebbero presenti in Italia arriverebbe verso il 2050, credo, poco meno a un quinto della popolazione. Ma oltre il 35% di coloro che hanno un'età, diciamo, da lavoro 15-55, quelli sono adesso, sarebbe nata o all'estero da persone immigrate e quindi sarebbero di seconda generazione. Queste persone che sono nelle forze lavoro, saranno nelle forze lavoro, dovrebbero avere un livello di conoscenze elevato per partecipare, diciamo, a una attività produttiva di qualità necessaria in un sistema globale per un paese come il nostro che non ha risorse materiali particolari, che su queste risorse deve investire. E purtroppo quello che abbiamo dai risultati delle scuole, già adesso che vediamo, è un ritardo dei figli delle persone immigrate in Italia rispetto ai figli dei cittadini italiani, i quali già tuttavia non rendono bene nel confronto internazionale e in alcune regioni, in particolare in quelle meridionali, rendono veramente male. Ora, i figli dei immigrati rendono peggio, abbandonano la scuola prima, e questo è un dramma, perché la crescita dell'economia di un paese ormai è chiaramente vista più alta per quei paesi che hanno uno stock, una dose, un livello di capitale umano, cioè di persone istruite, competenti, che hanno conoscenze tecnologiche e scientifiche necessarie per produrre ciò che oggi si consuma, è sufficientemente elevato. Grazie dottor Visco, ci sarebbe veramente molte cose su questo fronte, i problemi sono molto vasti, però merita appunto approfondirli. Questo libro ci permette di approfondire un tema che è essenziale appunto per avviare, soprattutto sul medio e lungo termine, sulla strada di crescita il nostro paese. Abbiamo parlato con Ignazio Visco del libro Investire in conoscenza per la crescita economica, edito dal Mulino, costa 11,50 euro a 140 pagine, è un'analisi economico e sociale della nostra realtà, una realtà di cui dobbiamo avere coscienza anche per partecipare ognuno al proprio posto nel tentare di sviluppare dei meccanismi di crescita. Grazie a quanti ci hanno seguito.